24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io sono cattolico, rivendico la mia appartenenza al centro-sinistra e al PD. Sono orgoglioso di far parte del PD, a te dico, la tua posizione è rispettabile, la tua quella di Carra ad altri, dovevate avere il coraggio di dimettervi dal PD e di dimettervi dal Parlamento, perché non si sta in Parlamento con i voti presi dal PD per andare contro il PD. Vale per voi, vale per quelli di loro che vanno via, è l'ora di finirla con chi viene eletto con qualcuno e poi passa via. Se io prendo e decido di mollare con i miei, mollo con i miei, è legittimo farlo perché non me l'ha ordinato il dottore, sono d'accordo. Però allora ho il coraggio anche di avere rispetto per chi mi ha votato, perché chi mi ha votato non ha cambiato idea. Ecco, onorevole Stefano Fassina, buongiorno, era Renzi a Porta a Porta. Ecco, adesso è lui che plaude a questi passaggi, è una contraddizione oppure no? Mi pare che in qualche modo vi sia una contraddizione tra le parole e poi l'accoglienza riservata a chi è eletto in un partito si sposta da un'altra parte. Insomma, quando capitava a favore di Berlusconi era praticamente un attentato alla democrazia, oggi è solo un allargamento della maggioranza. Parole o ipocrisia? Ma è evidente che la politica fa di necessità virtù. Per quanto riguarda gli esponenti di Scelta Civica non è un allargamento della maggioranza, perché erano già in maggioranza, e a loro favore va riconosciuto che è stato piuttosto il PD a spostarsi sulle posizioni di Chino e Sacconi, quindi da parte loro c'è meno incoerenza di quella che si può rilevare in altri casi. Senta, ma ci vorrebbe, onorevole Fassina, per essere chiari, ci vorrebbe un vincolo di mandato oppure no? Ma è un argomento molto delicato. Ma secondo lei? Secondo me ciascuno di noi dovrebbe averlo interiorizzato, questo vincolo di mandato. Interiorizzato, non obbligato, dice? No, non credo, che perché ci possono essere circostanze nelle quali il partito nel quale si è eletti che cambia radicalmente la linea, certo. Mi sono trovato in grandissima difficoltà a non votare il Jobs Act qualche mese fa, perché ritengo che il mandato ricevuto dagli elettori fosse diverso, significativamente diverso dalla posizione poi presa dal Partito Democratico, e non ho votato, quindi non ne farei un vincolo costituzionale o un vincolo di legge, perché vi possono essere circostanze particolari. Credo però che debba essere un vincolo interiore che un parlamentare avverte. Onorevole Fassina, senta, per Renzi prima il Nazareno era Nazareno a morte, adesso Berlusconi fa ridere, ma la politica può tutto, sì? No, non può tutto. Credo che paghiamo prezzi molto alti di credibilità nel momento in cui manifestiamo incoerenze così profonde. Io non ho capito davvero la posizione e la valutazione quasi liberatoria che è avvenuta dai vertici del PD e dai vertici del governo quando Berlusconi, Forza Italia, ha dichiarato rotto il patto del Nazareno, sì. Perché in questi mesi la dialettica parlamentare era una prigione, secondo lei? Era una gabbia. Il patto del Nazareno è stata una gabbia che ha limitato fortemente la discussione sui temi costituzionali che, come sapete, richiedono un primato al Parlamento. Ha limitato fortemente la discussione dentro al Partito Democratico. Senta, ma onorevole Fassina, secondo lei è morto veramente il patto del Nazareno, definitivamente? No, non lo so se è morto veramente, lo vedremo nei prossimi giorni parlamentari. Dopodiché devo riconoscere con amarezza che Silvio Berlusconi si comporta sempre più come capo azienda che come leader di una forza politica. Forza Italia fa scelte incomprensibili rimanendo dentro al terreno della politica. Senta, l'onorevole Boccia oggi dice che anche la legge elettorale può essere ritoccata nella quota dei nominati, si farà secondo lei? Noi presenteremo alla Camera, come hanno fatto presentato altri colleghi al Senato un emendamento per eliminare i capitalista bloccati, perché... Ecco, però, onorevole Fassina, non è curioso che una volta le preferenze erano il simbolo del voto di scambio, adesso sono il simbolo della democrazia? No, non sono il simbolo della democrazia e non sono certamente la nostra priorità. La nostra priorità sarebbero i collegi uninominali. Sì. Dopodiché bisogna scegliere realisticamente il male minore, e tra una Camera a larghissima maggioranza costituita da nominati, sì, in un Senato costituito per la sua totalità, escluso, di nominati, noi riteniamo che il male minore sia dare agli elettori la possibilità di scegliere chi li rappresenta. Senta, onorevole Fassina, l'elezione di Mattarella, del presidente Mattarella, è una vittoria di Renzi o della minoranza del PD? È una vittoria della democrazia e dell'Italia, perché al Quirinale va un uomo con una storia, valori, una professionalità in grado di garantire la Costituzione. Noi l'abbiamo voluto, l'avevamo incluso nella rosa dei candidati nel 2013, e ha fatto bene il Presidente del Consiglio a raccogliere la proposta, a unire il PD, a offrire un candidato di prima qualità alle altre forze politiche, ed è un peccato che Forza Italia non l'abbia votato. Onorevole Fassina, la vittoria di Tsipras in Grecia favorisce la battaglia di Renzi in Europa oppure no? In modo opportuno direi proprio di sì, perché cioè un passo verso la rottamazione dell'Europa degli eurocrati? Ma guardi, l'Europa non è stata degli eurocrati, gli eurocrati sono stati la foglia di fico che ha coperto interessi politici, interessi nazionali che davano mandato agli eurocrati. Non andiamo molto lontano se pensiamo, cioè, interessi tedeschi prevalentemente, interessi tedeschi, interessi della grande finanza, interessi delle grandi imprese che prima hanno lucrato in modo pregiudicato con i paesi debitori e ora li spremono fino all'insostenibilità per recuperare crediti dati in modo troppo disinvolto. Ecco, ma i 40 miliardi di credito che abbiamo noi verso la Grecia, secondo lei dobbiamo volerli indietro oppure no? Certo dobbiamo volerli indietro, ma dobbiamo partire dalla consapevolezza che il programma della Troica, la Grecia fa default, quindi i nostri 40 miliardi non ci saranno mai. Quindi l'unico modo per rivedere i nostri 40 miliardi è raccogliere le proposte che fa il governo greco, perché anche ieri ha ribadito che vuole pagare tutti i debiti, vuole delle scadenze che gli consentano di far ripartire la crescita, perché se non c'è crescita i debiti non naturalmente si pagano. Senta, onorevole Fassina, la Russia di Putin sembra voler entrare in questa partita offrendo una sponda alla Grecia, ci crede? È possibile o è pure fantapolitica? No, non è fantapolitica, è un pericolo che l'Europa, con un atteggiamento intelligente sul terreno politico oltre che economico, deve evitare. I legami storici tra la Grecia ortodossa e la Russia, i legami che vi sono stati durante il regime dei colonnelli in Grecia, rendono il rischio un rischio concreto. Reale. Ecco, onorevole Fassina, lei è un rappresentante della sinistra del PD. Il 1° maggio a Milano si apre l'Expo, ma la Turandot rischia di non essere eseguita per uno sciopero degli orchestrali. Da che parte sta lei? No, io penso che gli orchestrali dovrebbero lavorare, perché è un 1° maggio eccezionale e vi sono tanti modi per celebrarlo, anche suonando per un evento importante come Expo 2015. Senta, un'ultimissima cosa, onorevole Fassina, si voterà in primavera? No, credo che l'elezione di un presidente come Sergio Mattarella allontana, perché sarà rigoroso a far rispettare le prerogative parlamentari e i principi costituzionali. 800 24 00 24, numero verde. 349-238-6666, l'SMS. Qui siamo nella ricca e opulenta zona dell'Eur. In pieno giorno ci sono le prostitute in mezzo ai prati. Tutte le pompe di benzina sono piene di queste qua. E questo urina davanti a tutti, non gliene frega niente. Questo vende i panini perché tutta la notte è frequentato da gente che viene per travestiti. Perché oltre ai panini gli dovete bere gli alcolici che non potrebbe. Ci sono delle serie che in mezzo a sta stradina laterale ce ne sono 15-20. Per cui se tu casualmente entri lì perché magari vuoi evitare il semaforo, succede che alla fine non passi più perché c'è tutta sta gente per strada che contratta, che vedi che dalle macchine allungano le mani. Questi posti sono equamente divisi tra chi vende corpi e chi vende droga. coloro che gestiscono la prostituzione, guarda, qui c'è tutta gente, al femminile, coloro che gestiscono queste, stanno in guerra con questi che li vogliono mandare via, non vogliono più il transessuale o il travestito che gli toglie i clienti. Quelli hanno, mandano i bambini a controllare queste signorine qui, gli contano i preservativi per sapere con quante volte hanno i rapporti, per cui devono portare un numero di soldi che equivale al numero di preservativi usati. Hanno questi rapporti sessuali in ogni dove, dietro all'albero, sotto le finestre delle persone. Consumano dietro i secchioni, un circo di carne, tappeti di carne umana nudi. E la cosa grave è che spesso io vedo la cosiddetta volante, la pattuglia di polizia, che si intrattiene. Io sono favorevole alla zonizzazione, cioè all'avere delle zone in cui possa esserci la prostituzione e altre in cui possa invece essere limitata o proibita. Andrea Santoro, presidente del nono municipio di Roma, all'interno del quale dovrebbe partire il progetto di sperimentazione di un'area di tolleranza per la prostituzione, il cosiddetto zoning. Ecco, dottor Santoro, ne parlano tutti, il quotidiano Avvenire ha definito il progetto un'ipocrita operazione per decoro urbano, per il decoro urbano. Lei invece lo descrive come un'operazione di recupero sociale, cioè? Ed è esatto opposto, infatti vogliamo recuperare le prostitute che vogliono uscire dal racket della prostituzione. Per farlo serve un progetto a 360 gradi e stiamo provando a metterlo in campo. Un romanissimo come Carlo Verdone però teme, l'ha detto ieri, che regolamentare la prostituzione come in Olanda in questo modo sia un'impresa impossibile. A Roma, sono parole sue, diventa tutto zozzo automaticamente. Cosa gli risponde? Che Roma può diventare anche un esempio positivo ogni tanto, però ci si deve investire, ci si deve lavorare. Io penso che possiamo farlo. Senta, anche l'ex sindaco Rutelli, che vive all'Eur, dice assolutamente no. Rutelli venisse un giorno in ufficio da me per leggere le mail dei cittadini e venisse con me a fare una passeggiata fra le vie dell'Eur. Ma lui vive all'Eur. E forse dovrebbe uscire dal cancello di casa. Senta, il prefetto dice però che non si può fare. Non si può fare perché c'è una legge, la legge Merlin, è il suo progetto, è contrario alla legge. Come fate? Abbiamo incontrato la prefettura col viceprefetto e abbiamo concordato che staremo nella legge, e figurarsi se un presidente del municipio non vuole stare nella legge, quindi penso che troveremo la soluzione. E come si fa a stare nella legge se la legge lo impedisce? Come si fa? A Mestre Repubblica Italiana lo stanno facendo da un po' di anni, quindi sì, lo so. Dire che se a Mestre non sono fuori legge non lo saremo neanche a Roma. E qual è lo strumento? Un'ordinanza? Che cosa è un'ordinanza fa? Antiprostituzione per la maggior parte ovviamente delle strade del municipio, che escluderebbe invece alcune altre aree. Ma quali sono le vie interessate? Questo lo stiamo concordando con non avete ancora deciso. Del sindaco, perché devono essere controllate di ordine pubblico, ovviamente non se ne occupa il presidente del municipio ma la prefettura. Senta, il sindaco Marino, dottor Santoro, appoggia il suo progetto, ma la maggioranza che regge la giunta lo segue? C'è un dibattito in corso, e perché ovviamente è un tema abbastanza delicato che scuote le coscienze di tutti, e quindi anche della giunta, però io penso che noi dobbiamo affrontare questo problema, questo fenomeno, e provare a dare delle risposte ai cittadini e a chi pensa di sfruttare ancora le prostitute. Ecco, dottor Santoro, come farete in concreto a convincere prostitute e clienti a rispettare i limiti delle zone individuate? Facendo un lavoro quotidiano, cosa che non si fa, che non si è fatto fino ad oggi. Delle prostitute ci ricordiamo soltanto quando vengono aggredite per strada. In realtà noi vogliamo attivare per 2-3 volte a settimana questo rapporto, proprio per cercare di convincerle e farle uscire soprattutto dal racket della prostituzione. Beh, naturalmente sarà necessario incrementare la presenza e il controllo da parte delle forze dell'ordine. Ne avete concordato, non so, ne avete parlato ovviamente. Ne stiamo discutendo, e anche con la prefettura abbiamo detto che dobbiamo innanzitutto coordinare le forze dell'ordine, perché fra forze dell'ordine e polizia locale io penso che se coordinate al meglio possono offrire la presenza sul territorio che serve. Ecco, dottor Santoro, naturalmente sarà necessario incrementare la presenza e il controllo delle forze dell'ordine. Sì, assolutamente sì, è un aspetto del progetto ovviamente, ma non è l'unico, perché altrimenti avrei dovuto fare un'ordinanza come ne sono state fatte in tante altre città, che però sono servite a poco, quelle classiche antiprostituzione. Senta, qual è il costo previsto per l'operazione? Noi consideriamo circa 5.000 euro al mese per la, attivazione del Ministero di strada, cioè quel personale che cerca di convincere le prostitute a uscire dal racket. Per me quello è il punto fondamentale. E i fondi, dottor Santoro, da dove arrivano? È un fenomeno sociale, quindi i fondi si trovano come per gli altri fenomeni sociali. No, vabbè, ma avrà pensato dove? Beh sì, ci sono, diciamo, i fondi che sono a disposizione delle politiche sociali dei municipi e del Comune di Roma, e penso che quello siano, si possano utilizzare. Ci sono, li utilizzeremo. Quindi voi partite da aprile comunque, no? La nostra volontà è quella di partire ad aprile, perché poi è anche il periodo un po' più caldo sotto quel punto di vista, dove la prostituzione aumenta in maniera esponenziale. Ecco, dottor Santoro, se la sperimentazione si dimostrasse un successo, il suo municipio potrebbe richiamare prostitute, clienti anche da altre zone, potrà trasformare l'euro definitivamente in un quartiere a luci rosse sostanzialmente. È l'obiettivo questo? Penso che accadrà l'esatto opposto. L'Eur è già un sito nazionale dove è già considerato un quartiere a luci rosse. Quando 18 strade su 30 sono interessate da questo fenomeno, vuol dire che è sono 20 anni che c'è questo fenomeno. Invece sì, noi vogliamo ridurre al minimo, diciamo, questa presenza. Quindi, e penso che la disponibilità anche di altri municipi di allargare sul resto di Roma altre ipotesi di questo tipo, può essere un obiettivo. Ecco, un'ultima cosa, appunto, dottor Santoro, il presidente del terzo municipio di Roma, Marchionne, per l'appunto, si è detto molto interessato alla vostra sperimentazione nell'ipotesi di replicarla, e quindi è probabile che ci siano tanti piccoli quartieri a luci rosse, cioè in ogni quartiere una zona a luci rosse. Questo è un obiettivo finale, diciamo. Io l'obiettivo finale è quello di essere, di provare a affrontare un problema. Se il Parlamento ancora, in Parlamento già ci sono 12 proposte di legge su questo fenomeno, io penso che un presidente del municipio come un sindaco abbia il dovere di affrontarlo. Non può far finanziare niente, non può gettare la palla in tribuna, non può mettere la testa sotto la sabbia. Ecco, quindi un'ultimissima cosa: fuori dalle zone tollerate eventualmente saranno previste multe fino a 500 euro ai clienti che saranno trovati in compagnia di prostitute, e queste multe, si dice, saranno mandate a casa. È così? Io non so se è così, so sicuramente che possono essere... Ma l'ha letto anche lei, no? L'ho letto anche io, è un'idea del sindaco. Lei la prova? Io penso che dobbiamo utilizzare ogni formula per trovare dei deterrenti, e questo della multa a casa potrebbe essere uno. Allora Mario, quartiere a luci rosse, l'euro per difendere le prostitute? Sarò netto, una follia totale che non so da quale mente è stata partorita, se da chi abbiamo sentito meno. Io sono contrario per ragioni evidenti, cioè c'è un'ipocrisia di fondo, è tutto fuori legge, tanto per cominciare. Sì. Parliamoci chiaro. Sì, però a Venezia si fa, diciamo, con le che si faccia a Venezia, che si faccia a Venezia mi conferma ulteriormente la follia. No? Ma poi c'è un'altra cosa, cioè leviamo di mezzo l'ipocrisia. Questa è una cosa, se si dice appena appena, no? Allora qua la decisione è se legalizzare la prostituzione, quindi riaprire le cosiddette case chiuse, diciamolo così per esigenze di sintesi, o no. Punto. Fino. Tutto il resto è un pasticcio clamoroso. Penso che la cosa che hai ricordato tu di Carlo Verdone, che è persona intelligente e accorta, sia vera. Che questa cosa rischia di diventare un pasticcio colossale. Tu, Pietrangelo? Beh, è anche un pasticcio giocato sulle spalle dei cittadini, perché comunque stiamo parlando dell'euro ed è significativo. Dai, come quel quartiere che nasce anche attraverso un preciso disegno di genio, di coinvolgimento del meglio dell'architettura italiana, di straordinarie architetture dell'architettura italiana, Marino, debba essere ridotto così. Mi dicevi? No, ti ascoltavo. No, deve essere ridotto così, perché poi diciamolo, Pietrangelo, ridotto è una cosa inguardabile, incredibile, non esiste. Scusa, poi Giovanni, c'è un'altra cosa, cos'è sta storia che lo vogliono clonare in ogni quartiere? Cioè, appunto, insomma, cioè, si ripete dappertutto. Siamo impazziti, cioè, in ogni quartiere della città, ma l'angolo ricotta. Sì, l'angolo, cioè, è una cosa boh. Non lo so, vabbè, contenti tutti. Vabbè, proviamo a sentire Alessandro Scarpello, che è il dirigente della sezione investigativa della criminalità straniera e la prostituzione, la ex Buoncostume, insomma. Ecco, dottor Scarpello, in Italia la prostituzione non è vietata, ma un cliente che si ferma da una prostituta è sanzionabile?

Questo è il dato, ma è interessante che dice il dottor Scarpello, che non incide sullo sfruttamento, che invece era una delle cose che diceva Santoro volesse, si volesse in qualche modo attaccare. Giovanni, siamo tutti uomini e donne cresciuti, diciamo, abbiamo esperienza delle cose del mondo e ahimè facciamo i cronisti ormai da tanti anni. Il tema non è questo, appunto, ma è se dobbiamo accettare come società italiana, come è stato fatto in altri paesi, oppure no, di legalizzare questo mercato che esiste ed è in mano, è vero, alla criminalità, a delinquenti di tutte le risme e così via. Tutto dice in qualche modo, quello... lui identifica questa strada per andare in questa direzione. No, quello, no, scusa, quella è, se posso dire, la distruzione proprio di un concetto di legalizzazione di questa cosa, perché è la classica via di mezzo all'italiana. Aggiungo una cosa, solo una cosa di riflessione: pensate ai valori immobiliari, cioè gran parte della ricchezza degli italiani, dei quartieri dove si fanno queste zone. Solo credo, questo. Credo che sia semplice il ragionamento. È ovvio che si produca la spazzatura, ma è inimmaginabile che la discarica venga fatta all'interno del centro abitato. È ovvio che stiamo di fronte a un fatto che è parente di un'idea di degrado, se non proprio degrado, che purtroppo coinvolge la carne viva di esseri umani. Ma l'idea di trasformare un quartiere, peraltro un quartiere fondante dell'identità della città, in una discarica, crea ben più di un problema della città e della nazione. Mix 24. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. C'era un po' di tristezza metropolitana oggi? Altro che, anche perché mi sono ritrovato di fronte uno spettro, un fantasma, un'ombra che poi ho individuato, era senza dubbio l'ombra di William Shakespeare, che era tutto compreso in una sorta di orazione, una sorta di preghiera d'amore, ed era come un fantasma può pregare, trasfigurato nel dolore, perché, ho capito, aveva lasciato l'amata, l'aveva perduta l'amata, e cantava quindi tra le mie braccia questa canzone di Nick Cave, dove c'è il racconto di chi, volendo inginocchiarsi davanti a un Dio, chiede a quel Dio di non toccare neppure un capello sul volto di lei, di lasciarla così com'è, e se ritenesse di doverla guidare, di guidarla, diceva Shakespeare, tra le braccia, tra le mie braccia, perché se credessi agli angeli, li convocherei e chiederei loro di aver cura di lei tra le braccia. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, non era into my arms, oh Lord. Mario, le tue bolle, che cosa bolle nella nostra pentola? Un sacco di roba, vai. Allora, era da un po' che non lo mettevamo, io avevo un po' di nostalgia dell'inno sovietico, vero Pietrangelo? Posso segnalare agli ascoltatori, tu devi fare quello che vuoi, posso segnalare agli ascoltatori di fare una ricerca sul sito internet del Corriere e andarsi a rileggere tutti gli straordinari reportage di Paolo Valentino in questi giorni da Mosca. Ah sì, Paolino ha fatto cose belle, sì, le ho lette. Lo segnaliamo, dai. C'è una telefonata per te, Mario, prima della tua bolla. Sì. No, non c'è ancora, non vai, c'è con ancora. La bolla. Siamo a Kiev. Siamo a Kiev. Allora, niente, e tra 48 ore si tiene a Minsk un vertice decisivo, certo. Giovanni, per la questione ucraina. Partecipano Stati Uniti, Francia, Germania e appunto l'Ucraina. E Putin non accetta l'espansione della NATO a est, mi pare anche logico, così diciamo in maniera abbastanza normale a mio avviso. E Washington preme per una soluzione militare, questa è la cosa che secondo me pericolosissima. Sì, noi europei dobbiamo tenere d'occhio, vogliono inviare armi pesanti all'esercito di Kiev, insomma l'escalation di una guerra è una prospettiva tutt'altro che remota. Secondo John Mersheimer, che è uno dei più grandi studiosi di relazioni internazionali degli Stati Uniti, insomma quella della Casa Bianca è una follia, parole sue, quindi che ne pensate? Anch'io penso che sia una follia e un rischio grossissimo. E Pietrangelo? Salamino. Prima del salamino ce lo dici? È d'accordo anche lui. Sottoscrive. Salamini autoritari. Salamini autoritari perché, come dice Silvio Berlusconi, c'è una deriva autoritaria in agguato. Tutti pensavamo fosse allegra la situazione, niente meno che, ricordate? Tutti pensavano che fosse così, c'aveva il giubbotto alla Fonzi, era da Maria De Filippi, e invece in agguato cosa c'è? Purtroppo non nella versione russa ortodossa, ma in quella piritolla del sistema autoritario, della deriva denunciata da Silvio Berlusconi, non solo da Berlusconi, ma perfino da Massimo D'Alema, il quale ha giustamente fatto considerare che si è ritrovato tagliato, cancellato, sbianchettato, come nella tradizione più cocciutamente sovietica. Ma come? Lui, che è stato il presidente del consiglio dell'allora ministro dell'offesa della guerra bombardiere, cioè l'attuale presidente della Repubblica che bombardava la Serbia, ma come? Proprio lui, che ha sempre patrocinato il nome dell'attuale presidente della Repubblica, come si chiama? Sergio Mattarella, ecco, è stato cancellato dalle foto ricordo, dalle biografie, dalle prolusioni, da tutti gli amarcord, è stato cancellato perché la deriva autoritaria è stata imposta da colui che incarna adesso l'anima di Gigi. C'è poco da guardarmi perché so quell'amico che ti terrorizzava Trastevere e Panico, se il prepotente vero non so quello fasullo, e è ritornato a Roma il vero Gigi Arbulo. Ed è questo, lo ha detto pure Bombassei, vedendo andar via nella transumanza dei parlamentari di Lista Civica, tutti sotto le insegne del Partito Democratico, ha detto che comunque vanno a mettersi sotto l'ala protettiva del bullo. Ma ancora una volta Kalinka ci accompagna alla decisa azione del ministro Maria Elena Boschi, che nel suo ruolo di compagna ministro delle riforme aggiunge tra le funzioni del proprio dicastero la riforma del Kolkhoz e l'attuazione del piano quinquennale, passando in rassegna i lupetti e le coccinelle della Gesci democratica perfettamente inquadrati. Il compagno ministro dallo sguardo turchino ha smentito qualsiasi deriva autoritaria, tant'è vero che, procedendo alla collettivizzazione delle case popolari, scusate, non delle case popolari ma delle banche popolari, ha voluto mettere il suo papà, così da mettere un occhio benevolo e non un grande fratello. Non c'è deriva autoritaria e i cambiamenti al governo lo dimostrano. Allora, al posto di Del Rio arriverà Denis Verdini, al posto di Dario Franceschini ci sarà direttamente Daria Bignardi, al posto di Berlusconi arriverà Dudu, che dopo il bonus dentiere proposto da Forza Italia ha già proposto il suo slogan: mozzicare Renzi. pubblicità. Mix 24. Abbiamo il telefono Giuseppe da Milano per te, Mario, sul sì. tecnicismo del nostro debito con la Grecia. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Argomento Grecia. Dica. Se permette, un paese che amo moltissimo. Sì, ecco, no, ma dica la domanda, la domanda. Sì, la domanda. 40 miliardi prestati dall'Italia alla Grecia, sì. la cui entità si è presa ufficialmente solo nelle ultime settimane. Ecco, da quale voce del bilancio sono uscite? Perché si tratta di una somma enorme ed in passato ho appreso che queste somme vanno direttamente a far aumentare il colossale debito pubblico che ne dica Padovani, rendendo così sempre più pesante la situazione. Finisco, devi sentire inoltre, recentissimamente abbiamo pure appreso da pochi coraggiosi giornalisti che esiste già da novembre un accordo segreto per la restituzione del prestito entro il 2058, ovvero fra 50 e passa anni. Qual è la realtà o è un tabù? Come grazie Giuseppe. Mario, hai una risposta? Allora, il conto si fa diciamo scorporando le quote di partecipazione dell'Italia a varie istituzioni e meccanismi finanziari che sono stati messi in piedi in questi anni, dal fondo monetario ai meccanismi creati dall'Unione Europea per i vari salvataggi, che non sono solo la Grecia, sono il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e Cipro. Bisognerebbe riaggiornare il conto. Comunque, diciamo, a spannometro ci sono una sessantina, forse anche di più, dovrei rifare appunto i conti, di miliardi ulteriori, diciamo, che ballano su questo. Questi sono tutti i debiti, perché virtualmente prima o poi noi ce lo accogliamo in questo momento, virtualmente ce lo dovranno restituire, quindi c'è iscritto nella contabilità nazionale poi un credito, no? Okay. Il problema è, la domanda Va è questa, sapere se si la domanda viene pagato è oppure ce no. li ridanno o no? Punto di domanda. Ma questo è il punto. Pietrangelo, canzoniere. Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Traccio i miei segni nella notte che è solida, contro l'una e l'altra coscia come un'asse inchiodata. Scrivo, rivivo, rimuoio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms. Sara Tardelli. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. È dall'anno scorso che qui a Mix 24 parliamo di droni. Quasi una fissazione stava diventando. Infatti la Federal Aviation Agency americana stima che entro il 2018 ci saranno almeno 30.000 droni svolazzanti nei cieli in giro per il mondo. E questo significa che ci dovranno essere anche 30.000 persone in grado di pilotarli. I droni non hanno solo un uso militare, ovviamente, servono per controllare il territorio, fare delle riprese mozzafiato, consegnare pacchi, e con un po' di fantasia chissà per quante altre cose poi saranno usati in futuro. Non e noi immaginare. Esatto, non siamo, secondo me anche sai investigazioni. Non siamo rimasti indietro per una volta in Italia, e in Piemonte, tra un tartufo e un bicchiere di vino, si stanno moltiplicando i corsi per diventare piloti professionisti di droni. In un momento nero per la disoccupazione, io un pensierino lo farei. Volare. Oh. Mario, la bolla? Sì. Ma staranno tutti insieme in pace questi alla fine, perché noi abbiamo preso la questione appunto dell'Ucraina, che da cui si dipana una storia incredibile. Diciamoci la verità, il disordine mondiale a cui stiamo assistendo. Allora, oggi Angela Merkel incontra Obama, no? Perché il dilemma qua sono i tedeschi, che cosa faranno? Che non vorrebbero morire per Kiev e sanno anche che non è una buona idea svegliare l'orso russo. E insomma, presi tra questo e i bilanci che ballano della Grecia, che non vuole gli aiuti europei ma vorrebbe i soldi della BCE, che però non glieli dà e quindi bisogna averne altri, che cosa succederà? Io so solo una cosa, che la Russia è lì che gira intorno al problema della Grecia, come diceva tra l'altro, certo, Fassina, detto, prima. Sì. Hanno riserve auree enormi. Se volessero giocare a un nuovo risico, potrebbero perfino prestare dei soldi alla Grecia. Ecco, è una mossa, molto hard, ma molto quella che vedremo, hard, però potrebbe hard, anche però capitare. Potrebbe capitare. Salamino. Rome before Christ, after Fellini. Suburra, adesso si chiama Zoning a quanto abbiamo sentito, ma torna la Suburra semmai se ne fosse andata. E mi è venuto in mente, anche perché io sono stato sollecitato da domande degli ascoltatori, ma qual è la soluzione, qual è la soluzione, certo, qual è la soluzione? L'avrei trovata la soluzione. Sì, referendum. No, che cose un po' più serie, anche perché vi ricordate il grande successo dell'economia italiana, il calcolo del prodotto interno lordo è stato fatto anche sulla base di ben due punti, anche di più, ricavati dal mercato del sesso, sì, eppure da e quello, quindi, della criminalità. Io invece farei una proposta, cioè quello di far restituire all'urbe, alla città dei pellegrini, i Lupercali, anzi ancora meglio ancora i misteri venerei, quindi affidarsi a un recinto sacro che questo sottofondo lo suggerisce, questo è tutto, ecco, è la rumba saraghina che era affidata alla epifania della prostituta nell'immagine di Federico Fellini. Cioè, io non ho capito sta tua proposta, qual è? Il sacro, restituire un recinto sacro. Il recinto sacro, dai. Vabbè. Perché, scusa, secondo te dovremmo ridurre tutto con le logiche delle multe di Marino, che poi c'ha quella voce insopportabile. Vabbè, oggi sta roba burocratica, basta. Il recinto sacro, Minoli. So, oggi la storia, subito dopo il giornale radio, è dedicata al mondo dell'arte e a quella che è stata definita la beffa di Livorno. Signore e signori, buonasera, eccoci qua con lo speciale di TG1 dedicato, come vi abbiamo ripetutamente annunciato nel corso della giornata, alla burla di Livorno. Pensai di fare uno scherzo, ma uno scherzo che fosse diretto appunto alle persone, e quindi dissi, chiamai i miei amici, dissi, facciamo una scultura, un abbozzo chiaramente, perché nessuno di noi aveva la capacità tecnica di fare poi una vera scultura, in modo che dall'alto, da dove la gente guardava questa operazione, possa sembrare una statua di Modigliani. La mattina dopo, torno alle 10, passo, sento un gran fermento, mi fermo, domando a una signora, e questa molto emozionata, visibilmente sconvolta, hanno trovato una testa. Lo storia del secolo di ragazze che nell'82 si sono presi gioco dei più autorevoli critici del mondo dell'arte. La puntata di Emilia Brandi è raccontata e curata da Marina Milone, e prima della pubblicità, Contro il vento di Arisa. Se no...